valigia, ora te ne vai. È passato appena un giorno e già stanca sei. Non t'accorgi che 20 anni son passati già. Rifletti un poco, guarda la realtà. Ora non puoi più correre, sei superata ormai. Soltanto un figlio, pensaci, certamente ti cambierà. Metti a fuoco la tua mente, guarda intorno a te, lascia il mondo luccicante ma senza anima. Non mi sono imborghesito, sono come te, ma ho scoperto la normalità. Certamente ti cambierà.